Radio 105. Proud to be different. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Col gioco dei versi, Neo Nobody, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata di 13 PM, veramente fantastica, che potete ritrovare in replica insieme a tutti i podcast sul sito, l'applicazione di Radio 105. 100.000 miliardi di parole, me ne serve una sola. Perché uno dovrebbe andare a riascoltarsi la puntata di 13 PM? No, così era per dire. No, una sola parola. Una sola parola? Sì, sì, una sola. Malato. Fu. No, io te lo dico, fu. Visto che abbiamo stabilito che oggi la parola fu diventa la parola più figa dell'universo, ti fa sentire molto. Che poi la breve TV di fu fa quella che usavo io quando non mi venivano in mente le parole. Signori, grazie mille alla nostra Lidia, alla nostra zia, il nostro meraviglioso Walter e basta. Okay. Vi lasciamo in compagnia dello Zoo, noi ci risentiamo domani con 13 PM. Bella! Su 105 c'è 13 PM. 105 c'è 13 PM. Non si può andare in schifo, però. Ma prima di andare a palla, ma cos'era? Ho approfittato che la Puccioli si distraesse un attimo per fare un primo piano di un mio testicolo. Ma che il coglione, si vedono le vene che pompavano giganti sullo schermo. Adesso hai rubato il posto a un altro coglione. Prego, maestro. Vabbè, volevo aprire con una massima. Prego, domani, massima. Ragazzi, ho messo il coglione sulla telecamera, vado in televisione domani, sicuro. Vabbè, allora fate tutto voi. Allora, quando una zanzara ti atterrerà sulle palle, capirai che i problemi si risolvono anche senza violenza. Sono le 14. Mica, stavo ridendo. Stavo ridendo. Attenzione. In questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. anche oggi un'altra puntata dilaniante dello Zoo di 105? Ovvio. Benissimo. Ricordo a tutti coloro che vogliono insultare gratuitamente Fabio Alisei, lo possono fare scrivendo le cose peggiori al 342 41 15 105. Bravo Beto, sempre con rispetto. Ma no, ma lo sento nascere. È la giornata, è una costante. Sento crescere in me. E come un brivido che non puoi comprendere. Rompe le regole, oltre ogni limite, ma non ti molla mai, non ti molla mai. È troppo tardi. Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia. Buongiorno, oggi Mazzola male, il signor Nocito. Perché non si fa i cazzi suoi? Madonna mia, non ha ancora imparato. Hai ragione, hanno imparato tutti, tu no, amico. Sai che detto da te mi fa ancora più male, perché ti spiego. Perché Fabio mi guarda e mi fa, ma scusa, ma perché gli hai risposto? Scusa, ma fa una domanda e io gli rispondo. Questo è appena sveglio alle 8 del mattino, si guarda allo specchio, è sporco, pelato e non sente i sapori. Con le unghie dei piedi che ci può suonare l'arpa celtica. No, e tu gli vai a Marco. Io non sento gli odori, sento i sapori comunque. Sento i sapori. Vabbè, per quello che mangi. Spiegare la situazione. Tu hai buttato le si percepiva che eri incazzato per i cazzi tuoi. Lascialo stare. Giustamente, gli altri hanno detto: tutti devi fare i cazzi tuoi. Si incazza. Allora, no, invece no, vedi, ti sbagli. Bravo Paolo, infatti, io apprezzo, oggi ti premierò per questo, perché sei l'unico coraggioso tra il caculo del programma. Sei l'unico che ha avuto il coraggio di dirla tua. Di dire che sei un coglione, che è quello che abbiamo pensato. No. Non hai allora, detto che è un coglione? No. Allora io ogni mattina quando vengo qua in radio, non sempre, però ogni tanto mi ascolto il buon Howard Stern su Sirius XM, perché l'America, ricordiamo, è avanti 20 anni a livello radiofonico e hanno questa nuova radio che non è l'FM, non è la M, si chiama XM, dove hai a disposizione 400 canali in tutti gli Stati Uniti in proprio qualità stereo perfetto, senza un fruscio né niente, via satellite, e lì ci lavora il famoso Howard Stern. Allora, l'altra mattina aveva Spielberg in onda e ha fatto una gara di rutti con Spielberg. Solo. Cioè, è una roba che io dico, porca puttana, che figata. Stamattina accendo, dico, voglio sentire che cazzo fa oggi. Jim Carrey in collegamento. Vabbè, tipo, ma Jim Carrey è un fallito, dai. Ormai non lo ma tua madre è fallita con la bastarda. Non è un fallito? No. Non l'ho visto più da nessuna parte. Comunque, se allora non c'è ritratto. Siccome ultimamente abbiamo provato a chiedere alla direzione di avere dei personaggi, degli ospiti, non di quei livelli lì, stiamo parlando di gentina proprio, di roba piccola, e la risposta è no, non si può, è sulla lista nera. E allora lì dico, ma scusa, ogni persona che io chiedo all'azienda, no, non si può, no, non vuole, no, qua. E allora Paolo stamattina mi scrive, ma è anche vero che noi li trattiamo tutti male. No, scusa, allora, Spielberg è andato in onda con Howard Stern, gli ha detto, la prima cosa che ha detto al telefono è stata, hai finito di rompere il cazzo a tutti i miei film, ho fatto il record di incassi e tu per ogni film hai avuto da ridire su quello, su quella, hai detto che sono un coglione, che sono un cesso. E io ho detto, figa, ma allora ricordiamo normale, questo, no? Che Howard Stern ha visto Schindler's List e stava dalla parte dei gerarchi, cioè, ha fatto il tifo per i nazisti. Fabio sta scherzando, ma in realtà è vero, cioè lui è sempre stato famoso perché insulta i neri, gli ebrei, cioè chiunque gli passi davanti lui gli spara. Sì, capito? Ma io ho puntualizzato solo perché allora, il farlo in onda insieme al protagonista, che può essere chiunque, ma il protagonista, allora il problema qual è? Steven Spielberg, che è Steven Spielberg, non è un coglione che ha fatto tre dischi. Howard Stern, non è mica uno stronzo. No, ma non è uno che ha fatto tre dischi di merda, tra l'altro spinti dall'alto perché per il volere di qualche potente, cioè è Spielberg, no? Se lui sta al gioco, allora perché queste quattro merdine qua, a cui diciamo quattro paroline ogni tanto, se la devono prendere? Vieni in onda. Ma io ho mai negato a qualcuno. Quella è la cosa che mi piacerebbe, capito? Ma ci si fa una risata. Allora io proprio per come sono fatto non riesco a leccare il culo alle persone che mi fanno cagare. Io sono una persona trasparente, sto sul cazzo, mi puoi amare, mi puoi odiare, non me ne fotte un cazzo. Io sono così. O mi prendi così o te ne vai a fanculo. Per quanto mi riguarda. Quindi io non posso leccare il culo a uno. Semmai, se ha da ridire, io gli do il microfono, cioè può venire in onda e può dire quello che gli pare. Non ho mai negato a nessuno la presenza nel programma. È che dicono: ma sì, tanto, che cazzo sono quelli? Io sono superiore. Ma vai a fanculo. Ed è vero, è questo che ci fa male. La cosa che ci fa più male è questa. Certo, tra sei mesi poi quella persona scompare e dopo allora viene a bussare. Oh, non è che mi ospiteresti nel programma, vero Costantino? Quanti sono passati sotto le grinfie di questo programma e all'inizio ma che cazzo sono questi, poi scompaiono. Però aspetta, scusa, hai detto una cosa cattiva. Allora Costantino, abbia pazienza, si sta solo prendendo un ventennio di riflessione. Certo. Si è preso un ventennio sabbatico, certo. Lasciamoglielo finire, quando ha finito questi vent'anni per pensarci certo, su ritornerà, certo. No, io quello che dico e mi fa girare il cazzo di Paolo, che Paolo invece è un po' Paolino è il lecchino, hai ragione, l'hai detto tu. Ma che l'invidia è una brutta bestia, ma l'invidia andiamo comando. Ma scusa, è sempre stato mio amico. Ma che cazzo lo conosce? Ma vai a cagare che veniva in radio. È venuto in radio, l'ho insultata a merda che non è venuta alla festa di vent'anni perché se l'è tirato e gli ha leccato il culo. Era a Los Angeles, come cazzo faceva a venire? Paolo non sa che il trattore gliel'hai prestato tu, ragazzi. Sennò col cazzo che andava in tangenziale. Ed era dalla Lamborghini, tra l'altro, quel trattore. Dai, che ti ho visto scrivere sotto la sfera e basta. Minchia, sei un grande. Ma mai scritto sulla sfera? Li recupero tutti, guarda. I cuoricini a Belen, dai. Sì, i Ferragnez lì, andava lì. Oh, siete troppo belli, ma vai a cagare. Ma a me Fedez è simpatico. Quando fa le minchiate, l'ho coperto di merda per Sanremo, ma ho sempre detto che mi è simpatico. Perché devo avercela con lui, non mi ha fatto niente. Ma io, allora, qui non si parla di simpatia, antipatia. Ma cosa ti ha fatto Fedez a te? Ma a me niente, ma chi se ne culo? Ma che cazzo me ne frega a me? Ma che cazzo vuoi da me? Ma che cazzo vuoi tu da me? Bastardo, adesso ti do un pugno in faccia. Oh, quando è che è pronta quell'applicazione per tirare gli schiaffi di gomma in faccia agli amici? Oh. Madonna, aspetta che scarico. Aspetta, Calabria. Dio. Calabria app. Aspetta, c'ho anche le skill. Allora, fucilata, rapimento di consorte. No, aspetta. No, cazzo, è troppo questo. Aspetta. Io metto mi piace sulla signora Fletcher. Bravo. Allora, voi dovete sapere che il maestro vorrebbe incularsi la signora Fletcher. Ma veramente, maestro? Sì, è una perversione che c'ha da anni. È ormai. La signora anziana. Perché? È vecchia, cioè era vecchia quando noi la guardavamo nella serie TV. A me le cose pendenti piacciono. Non mi piace la torre di Pisa, lui, infatti. Non mi piace la roba tonica. Quindi anche non negherebbe mai un bel cazzo molle, insomma. Sai che c'ha là sotto. Comunque sapete un crimine c'ha là sotto. Sto cercando di glissare perché è venuto uno sbocco un attimo. Mi è venuto. No, allora io stamattina, tra l'altro, è partita la faida tra di noi sulla chat dello zoo. Dovete sapere che noi abbiamo tipo 20 chat, no? C'è quella del programma televisivo che è lì da 20 anni e mai andrà in onda. Poi c'è quella per i vari progetti, c'è quella della zoo ufficiale, c'è quella dove si sparla degli altri. C'è Mazzoli merda, lo ricordiamo. Esatto. È l'unica nella quale non sei presente. Chat zoo solo per gli eletti. Per insultare gli altri dello zoo. C'è il vero zoo. Dove ci baciamo i culi mascherati inneggiando a Baphomet. Poi c'è chat mutilati, ma non ha mai risposto. Poi c'è quella con i ragazzi del Perineo, ormai si chiamano così, no? Un viale. E quindi stamattina gli ho chiesto di fare una roba. Loro, figata, sì, dai. Dico, se non lancio io le idee, i quattro anziani di merda che vanno a raccogliere castagne al parco, figurati, ormai è lo stesso blog, belli seduti. Devo andare in moto con quattro persone che percepiscono la pensione, l'avrei fatto ma anch'io. Vai a cagare, ma vai purtroppo a cagare. Non frequento pensionati. Allora, ti dico solo che uno di quei pensionati lì, che tra l'altro è più giovane di me, quello. Ma se li porta male allora. È il figlio del proprietario della più grande azienda di distribuzione di Coca-Cola in Sud America. Vecchio. Se esci solo con la gente che c'ha i soldi, se una rivista di me. Io preferisco un muratore sincero. Io frequento anche i barboni, me ne frego un cazzo. Ma vai a cagare. I riders sono persone vere, non quelli della Coca-Cola. Cazzo di classista. Ma che cazzo vuoi, pezzo di merda? Io non guardo i soldi delle persone, ogni persona per uscire che con mi loro. Ogni persona che vede nelle mie stories è: oh, senti, c'ha il grano, glielo posso scroccare. Senti, ma se arriva a Miami adesso, ho capito, ma glielo scrocco, mica ci esco. Certo. Io giudico le persone in base a ciò che sono, non ciò che hanno. Sai che ti morderai una chiappa adesso? Puccioni, gira la testa, per favore. Gira la testa, per favore. Adesso mostrare i testicoli. Marco, mostrare i testicoli. Guarda che bella vena, che bella vena. Mi fa ridere, sto sembra. Sai le teste di polpo? Sembra la superficie di Marte. Puoi levare questo coglione dalla guerra? Guarda che vene, guarda che vene. Voglio vedere le vene. Che palle, Marco. Ti piace? Ragazzi, allora, che io... mostrare un testicolo non ti dà ragione in una discussione. Adesso avete capito perché non ci mettono in radiovisione. No, adesso perché adesso, Pippo Pelo sì. Adesso respirate tutti facendo parte del programma. Vuoi dirmi che Pippo Pelo non ha mai tirato fuori i testicoli in trasmissione? No, ti giuro che se fossi miliardario adesso andrei da Pippo Pelo, gli darei 1 milione di euro, tira fuori i coglioni in chat, ti prego. Quando sei in diretta su Kiss Kiss, tira fuori le palle adesso, fallo, ti prego. Il programma offerto dai miei coglioni. Peccato che non li potete vedere, che sono molto belle, sì, tra le mie palle. Sì, devo dire. Ah, brutte, adesso. No, no, sono dei bei coglioni, devo dire la verità. Si vede che voi in famiglia avete una tradizione di coglioni. Nel senso di belle palle. Scusa, mi è caduto un vaccino, scusa. Cosa te le fai che tu non lo fai? Sei un bastardo. Cioè. Sai che così ci stiamo fatendo? Stavo arrivando lì, perché nella chat sono partiti tutti a insultarmi, io a un certo punto l'ho disarmato, no? Sai, poi quando allora, Fabio Lisei non è solo colto, è anche molto abile negli insulti, cioè riesce a articolare l'insulto che a un certo punto ti spegne. Non avevo più armi, allora scusate ragazzi, devo andare a lanciare un po' di vaccini dalla finestra, vi scoccio. E loro, pezzo di merda, bastardo. Adesso ci ha bloccato anche AstraZeneca, cazzo. Marco, ci vacciniamo nel 2060. Dai, ci rifacciamo col tartufo, noi che sentiamo i profumi. Che schifo di esseri che siamo, ragazzi. Comunque allora facciamo schifo, questo è vero. Allora, intanto una roba, voi sapete che esistono un po' di leggi sovrannaturali, no? C'è una legge che chiamano la legge di Murphy, perché la legge di Murphy dice: se una cosa può andare male, lo farà. Sì. Ed è vero, ed è sempre così. Sì, è sempre così. Allora, tu non so, ti è mai capitato di essere tu che sei in macchina in questo momento, no? Sei in autostrada, traffico dalla Madonna, coda al casello, tu dici: scelgo quella lì che mi sembra la più veloce. Boom, si blocca il tipo, non gli funziona il telepass. Aspetta, aspetta, ti faccio un esempio che è calzante con i tempi che stiamo vivendo. Allora, ti arriva l'SMS perché finalmente è il tuo turno per andare a fare il vaccino contro il Covid. Sì. Il vaccino che devi fare è AstraZeneca. Hai l'appuntamento alle 4:30, alle 4 li bloccano. Questa è la legge di Murphy. No. Ed è successo a quasi, credo, 1 milione di persone ieri. Sì, credo, quasi un milione. Eh sì, Madonna. Tra l'altro stanno tranquillizzando tutti, dicono che questi vaccini sono estremamente sicuri. Ma che cazzo vuoi tranquillizzare adesso? Una volta che c'è la notizia, ciao. Cioè. Ma non è tanto, sai che cosa mi preoccupa? Non tanto quello che magari dice: bah, io aspetto, perché io sono uno di quelli, nel senso che comunque, scusate, non voglio vantarmi del fatto che qua ne abbiamo a iosa, però sì, nel senso, io ho deciso di aspettare perché non ne ho bisogno, ho ancora gli anticorpi, meglio che vadano avanti gli anziani o chi ne ha bisogno, chi ha malattie pregresse, robe varie. Il problema è quello che l'ha fatto, che adesso ha paura che la prima iniezione gli possa far male, quindi immagina lo sbattimento, cioè c'è gente che veramente ma va in paranoia totale. Ma i medici che li fanno, perché tipo ti arrestano, pare, se tu ammazzi a uno, li hanno... Ma questa è la disinformazione più assurda che ho sentito. Cosa hai detto? Ma proprio fatta male con un mezzo importante. Tu leggi, tu ti informi sul retro delle Pringles. Allora, cioè, mentre sei lì che sgranocchi. Come distruggere anche, capito? Cos'è che hai detto? Io ho sentito dire che è un medico. Ho sentito dire. Sa chi l'ha ha fatto dire? Il vaccino a una. Sì, questa sì. È morta. E questa ma nessuno è morto di vaccino. Ha preso la sedia elettrica. No, sono morte delle persone. No, nessuno è morto di vaccino. Puccioni, ti prendo. No, non diciamo. Facciamo ordine, sono solo 6 casi in Italia sui quali si sta indagando, e la cosa di cui sta parlando Herbert un po' a modo suo è lo scudo penale per i medici, perché ovviamente i medici che somministrano i vaccini vengono sono indagati, responsabili, certo, vengono indagati, però qui bisogna ritornare indietro ancora, perché essere indagato non vuol dire che sei colpevole, è un provvedimento di tutela che poi lo abbiamo strumentalizzato negli anni, anche io sicuramente, però aprire un'indagine su una persona vuol dire che tuteli quella persona, perché stai controllando che tutto sia andato in un certo modo. Madonna, ragazzi, che bravura, che presenza. Io chiudo. Pensa se era figa. Comunque sono morte 6 persone, giusto? Ci sono sono sei casi sospetti su milioni di somministrazioni, ma per ora non c'è ancora riconosciuto nessun nesso causa-effetto. È normale, tornando alla legge di Murphy, è normale che uno pensi, io probabilmente sono il settimo, con la sfiga che ho, sono il settimo. Però cioè, ora sono... io non voglio fare quella cinica per forza, ma te potresti morire anche senza aver fatto il vaccino, cioè nel senso una trombosi. Di cozze. Sicuramente un incidente stradale in qualsiasi momento. Aspetta un attimo. Però tu fai il vaccino, finisci sotto un autobus, non è colpa del vaccino. Ma che ne sai? Magari, magari il vaccino attira gli autobus. Potrebbe col 5G in effetti ci sta. Allora me lo faccio così la 94 arriva puntuale al mattino. Sala! Sala Cadula! Non c'è ancora un nesso causa-effetto e questo è importante. Non Beh, c'è ma questa, ancora questa è la più caso. Grande preoccupazione. I tempi sono molto stretti rispetto alla normalità e quindi ci possono essere delle controindicazioni. I benefici sono comunque maggiori, ma il problema è che adesso, come diceva sempre Herbert, il dubbio è insinuato, quindi insomma siamo un po' nel buio, diciamo, perché ma è normale che l'essere umano si ponga delle domande, sennò saremmo dei coglioni, delle pecore. Sì, ma le domande adulto. Che mi fate negli Stati Uniti è: quale faccio? Mi faccio il Pfizer o quella? Cioè avete la scelta addirittura. Ho capito, c'è stato un ribaltone, l'America comunque non ha passato un buon momento, cioè c'è stato un momento in cui l'Italia faceva, hai visto gli americani che come se n'è andato Trump. Io sono in vacanza quest'estate, l'estate scorsa eravate tutti col cazzo all'aria in piscina. Oh, vaffanculo gli americani. No, aspetta, aspetta, in piscina. Io ero al mare col cazzo che ero in piscina. Vabbè, ero in Calabria al mare. C'era chi era in barca a stappare bottiglie di champagne mandandomi messaggi: vai a fare in culo te gli americani, coglione, hai visto? In Italia è finita il metodo italiano, coglione. E adesso tutti: pezzo di merda, perché tu sei in giro senza mascherina? Quanto ci stai godendo di sta cosa? Cos'è? No, lo sto godendo, mi dispiace tantissimo. No, però mi stai godendo sulle spalle degli italiani, che tu se no li riconoscevi. Io godo nei confronti di chi mi ha rotto i coglioni in quel momento lì. Stai sfottendo il popolo italiano che muore a 100 a 100 ogni giorno. Guarda, sei un bastardo. Adesso ritira quello che hai detto, perché ti metto le mani addosso e trovo il modo a distanza. Anche gli svizzeri di lingua italiana, ma sei implacabile. Anche gli sloveni, no, dai! Paolo, guarda me. Cosa ho fatto io? Aspetta, no. Aspetta, fammi vedere. Cos'è? Allora, cos'è? 5, 5, 10, 10, esatto. 10 mani. La 10 mani, no, anche, 10, no, 10 righe, 10 la righe. 10.000 euro, mi dai 10.000 euro? Sì. Se così faccio, sì. Se tu. Schiaffo, esatto. Faccio 10.000 euro. Quanti me ne dai? 3. 3, 5. 3-7. Va bene. Scusa, ma come le fai le contrattazioni? Paolo, te ne do 11. Esatto, di più. Te ne do 11. Sono rimasto sbilanciato anche la storia della mia vita. Sono troppo onesto. Chi più spende, meglio spende, dai. Vabbè, sentiamo la legge di Murphy, va là, che purtroppo racconta la verità. Andiamo, dico vai. Una cosa, no. Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti. Guardalo il bastardo, è tornato a casa con la PlayStation nuova per i figli. Ma Antonio, ma la vuoi finire di farti i cazzi di nostri vicini? Ma dico io, dove li prende sti soldi quel bastardo? Lavora sodo e non sperpera. Sì, chissà che cazzo combina quel bastardo. Ha cambiato macchina, gira con tutta roba firmata e i figli c'hanno già la moto a 12 anni, dai. Va che sei una cazzo di carogna gelosa. Non accetti che sia una persona intelligente e che sappia amministrare i suoi soldi in maniera furba e che probabilmente sei in grado di fare degli investimenti che fruttano. Cazzo di maligno, ti devi vergognare. Figa, c'hai ragione, Agata. Ma mi sento in colpa in fondo, è proprio un bravo Cristo. Ehi, fatti! Sì, chi è? Oh, zio! Siamo in due. Pesati però, senza sgrammate. Ma chi è? Dai, zio, mi manda Robby per... per la freschezza, per la bonza. Guardi, credo che ha sbagliato citofono. Ma sei Luca, sei? No, Luca è il mio vicino. Scusi. No. Hai ragione. Se hai il grano, spaccia. No, non è vero. Ehi, Amedeo, come stai? È una vita che non ti vedo. Mamma mia, come sei in forma. Eh già, mi alleno molto e faccio dell'alimentazione sana. Cazzo, si vede un botto, ti posso offrire un aperitivo? Ma sai, preferirei di no, non vorrei mai che poi... Cosa? Sai, ho avuto dei problemini in passato con gli alcolici. Ma va, che cazzo dici? Cazzo vuoi che sia uno spruzzettino d'olive? Ehi, batti! Dove la troviamo una troia qua? Bastardo, ma come sono messo, mi vedo vomitare. Cazzo, mi sono pisciato addosso, porca merda. Alle due non ci sono più le puttane. Andre, dai, vieni fuori con noi sabato. No, non posso, devo studiare. Ma dai, cazzo, ancora questa storia della laurea. Ma vuoi proprio a tutti i costi il posto da McDonald's? Dai, vieni. No, non posso, devo studiare. Beh, ma ci sei settimana prossima per il party a casa di Lucia, quella che succhia i cazzi per fare la gara di apnea con la brasiliana di TikTok. No, non posso, devo studiare. Che cazzo, ma lo sai che poi te ne pentirai? Un giorno ti pentirai che ti sei perso le figate per una laurea che non ti serve un cazzo. Lo so, ma devo studiare. Vabbè, ciao, io non ti chiamo più sfigato. Ehi, fatti. Scaricato il frigo e le sdraio? No, dai, cazzo, i bambini piangono, che due coglioni! Oh, cazzo, ringrazio che siamo riusciti a permetterci sta vacanza di merda in un campeggio a spiaggia libera. Porca troia che iace, guarda quanta fica! Davanti ai tuoi figli? Ma che sta arrivando, arriva un tender, chi cazzo è sto bastardo pieno? Ma scusa, tu sei Maggioni. Andavamo insieme alle superiori, ti ricordi? Sono Andrea Bentivoglio. Andrea! Cazzo, quello che non usciva mai per studiare. Che figata vederti, vieni a bere una birra al bar. Scusa, ma non posso. C'ho lo yacht pieno di pornattrici polacche che succhiano i clitoridi. E poi sto contando il mio primo miliardo in investimenti. Pomeriggio fitto, guarda, mi dispiace. Ah, certo, certo. E tu, che fai di bello, che fai? No, niente, sto andando a suicidarmi. Ah, ok. Se studi, poi coi soldi scopi la figa. Sì. Un po' banale. La legge di Murphy ha sempre ragione. Però. E prima o poi te la mette nel culo. Mi ricorda la mia infanzia questa parte, bellissima. Ah, sì, hai incontrato uno con i soldi che scopa? No, che gli ha messo nel culo. No, io ero in cumpa ad Arcore, c'era veramente un palter di personaggi, no? E stavano tutto il giorno al parco a fumarsi le canne. E io dicevo: no, io vado in radio, ma fai a far cose in radio, cretino. Io ero un ragazzino, volevo fare la radio, mi piaceva la radio, stavo tutto il giorno chiuso in radio, dischi, musica, robe. Poi sono tornato dopo tanti anni. Capito? Erano tutti miliardari, padroni d'azienda. Esatto. Anche io stessa cosa, mi dicevano: cosa vai a fare il gessista con tutta quella polvere che te ne fai? Poi guarda, visto che poi quanta bamba. Alla fine pensa che io ero quello che passava tutto il pomeriggio in cupa a farsi le canne ed ero quello che studiava. Pensa agli altri, capito? No, ma è vero, cioè nel senso che questi qua che hanno passato il loro pomeriggio a fumarsi le canne, tutti miliardari, io come un coglione ancora parlo alla radio. Cioè proprio il contrario, capito? Dicevo, vedrai io un giorno. Bello. No, stare quello qua viene fuori per quelli che giocano a videogiochi, perché sai quanta gente quando era piccola, ma che cazzo giochi a fare a videogiochi? Miliardari, guarda. C'è uno che guadagna 38 milioni di euro all'anno. I gamer fanno un sacco di soldi, quindi in culo ai genitori, che cazzo giochi a fare quei giochi di merda. Vabbè. Senti, invece, non so se avete letto il rimborso record alla famiglia di George Floyd, il ragazzo di colore che è stato ucciso dal poliziotto. 27 milioni di dollari alla famiglia, è un rimborso record. Non lo so se è giusto, cioè nel senso mi sembra una cifra veramente spropositata. Cioè, allora, attenzione, la vita umana non ha un valore. No, infatti. Cioè, però infatti. Quanta gente è stata malmenata, picchiata, uccisa. Ma probabilmente perché fa giurisprudenza, credo, nel senso che appunto. Ma lui non studiava. Il provvedimento che è stato preso. Fa giurisprudenza il provvedimento, non lui. No, è che lui non è che fosse veramente uno stinco di santo. No, nel senso no. Che lo stavano arrestando perché aveva commesso un ennesimo reato. Insomma, non era proprio. Però probabilmente di fronte a un rimborso così alto, probabilmente le forze di polizia ci andranno un po' più caute su questo tipo ma di manovra. Ma hanno appena ammazzato un bianco, con lo stesso identico metodo, appunto. E non è successo un cazzo. Niente, probabilmente dovranno tirare fuori di nuovo un rimborso milionario per questa roba qua. Io adesso vi dico una roba, no, io sapete che io non sono razzista perché io vivo in un paese dove non puoi essere razzista perché sei circondato. Infatti gli Stati Uniti non sono razzisti. No, no, gli Stati Uniti sono razzisti e non sono razzisti, siamo più razzisti noi italiani degli americani, fidati. Cioè il discorso è un po' più ampio, comunque sta di fatto che essere bianco oggi in America è una rottura di cazzo, cioè veramente sei adesso si è sbilanciato al contrario, cioè giustamente l'altro giorno c'era una protesta in strada con scritto che tutte le razze contano, non solo quelli di colore, cioè tutti i colori contano, cioè non puoi fare una, perché altrimenti l'ago della bilancia passa dalla parte opposta e quindi si favoriscono quelli di colore e vengono se favoriscono cioè loro per un centinaio d'anni non ci niente di male, ma fine sì, ma ho capito, ma sono, dai, ma comunque sotto, siamo nel 2021, dovremmo pareggiare tutto. C'era, cioè, pure Hulk nella protesta. Bravo, sì, esatto, c'era Hulk. Cioè, io dove sto? Sono seduto. Non sono bianco, non sono nero. Beh, anche i pelle rossa, allora, cioè gli indiani d'America dovrebbero ribellarsi. Poverini. Se smettono di bere. Che cazzo dici? Sai che ho visto quel film con Tom Hanks che adesso c'è sulla piattaforma di Netflix che mi sembra notizia del mondo. Allucinante. Bellissimo allucinante il film. Però cazzo fa vedere una crudeltà nei confronti dei nativi americani devastante. Beh, cioè, gli europei sono arrivati in America e li hanno sterminati, ma gli hanno fatto delle cose atroci perché volevano conquistare questo loro cazzo spazio di posto e hanno fatto delle robe e gli hanno scopato. È la fine che faranno i veneti, vedrai, se non chiudiamo, cioè, i porti. Loro ci stanno avvisando. Io credo che il messaggio oggi debba essere che siamo tutti uguali, che tutti devono avere gli stessi diritti, uomini, donne, donne, donne, uomini e uomini. Anche la Chiesa adesso che dice che non possono benedire le coppie gay, ma vaffanculo, ma capisci che, cioè, vai avanti in un modo e torni indietro nell'altro. L'amore, ragazzi, non ha forma, colore. L'amore non ha nessun tipo di immagine. Non è che l'amore, la famiglia deve essere per forza marito e moglie e bambini. Può essere anche una donna e un cane. L'amore non ha un confine. O non un ha uomo limite e una maiala. Cioè, ma assolutamente, cioè, non puoi definire l'amore, perché una persona si può innamorare di qualsiasi cosa, persona, e su cazzi suoi. Non puoi comandare l'amore. L'amore è una roba. È una roba invisibile, cioè ognuno di noi ama cosa? Dai, sentiamo. Mia cosa, moglie dice che sono alcolizzato, invece sono innamorato del Ballantyne. Dice che sono alcolizzato. Si fa presto, dice. Allora, se Alisei domani decidesse di divorziare da sua moglie e sposarsi una bottiglia di Ballantyne, così poi mi tocca avercela come moglie, col cazzo, no? La tengo come amante. Con la sua bandierina scozzese. Ottimo ragionamento. Però è stato veramente uno scivolone da parte del Vaticano, che questa non dovevano farla. Cioè, dai, ragazzi, no, probabilmente c'erano delle resistenze interne, nel senso ma che comunque cazzo questo, gliene frega, questo è un papa molto progressista, ma se uno, finché uno non viene col cazzo di fuori te lo punta all'ano, ma a te che cazzo te ne frega di quello che fai, insomma, c'è un vangelo comunque, ma che forma, cazzo l'amore me ne frega, ma ragazzi, ma l'amore è l'amore, non puoi fermare un sentimento. Scusa, Marco, cioè, loro hanno accettato il metodo scientifico 500 anni dopo Galileo, cioè ci hanno messo 5 secoli per dare ragione a Galileo. Per dare ragione a Elton John, lasciagli almeno una cinquantina d'anni. Cioè, hanno scoperto dopo 500 anni i buchi neri, per quello del culo lasciagli mezzo secolo. Ma a me sembra che loro l'abbiano scoperto molto prima degli altri. È un metodo sperimentale. Certo. Che vergogna. Vabbè, ci colleghiamo a proposito di amore con un blocco che è dedicato proprio a questo sentimento puro. Uomo, uomo, donna, donna, cane, gatto, gatto, cane, cane, uomo, uomo, cavallo, cavallo, maiala, come nel caso di Fabio. Ci sta tutto, vaffanculo. Se vuoi fare una sdrenata a quella roba che ami, sono cazzi tuoi, falla e vaffanculo. La sderenata dello Zodi 105. Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana. Ti butto nella monnezza, amore mio. Ti butto nella monnezza, amore. Sderenata rap, ti butto dalla finestra, amore mio. Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana. Ciao Umbriake, sono Laura. Volevo dedicare una sderenata al mio ragazzo Luca. Nel sesso facciamo di tutto, ma non si vuole fare leccare le palle perché se ne vergogna. Dice che sono brutte, che sudano e che ce le ha troppo sensibili. Di conseguenza, per questa sua fobia, io mi sento in colpa a chiedergli di fare sesso orale per poi non ricambiare. Vi allego la foto e poi mi dite se secondo voi sono così brutte. Ma mandato la foto delle palle. Pronto. Pronto, Luca. Ciao. Ciao Luca, sono Umbriake. Ciao Umbriake. Ti chiamavo perché Laura, la tua ragazza, sì, ci ha mandato un'email perché ti voleva dedicare una sderenata. Ok. La vuoi ascoltare? Ma certo. E allora andiamo. Luca, che ti trombi Laura in allegria, a letto date vita ad ogni fantasia. Ma se parliamo di scroto, ti vergogni, dici che il tuo è brutto, che è tanto sudato, ma che soprattutto è molto sensibile al contatto, e di conseguenza per questa tua fobia lei si vergogna a domandarti di baciarle la bagiana, e ci ha mandato la foto delle tue palle sudate, delle tue palle sudate che sono normalissime, ma non farti ste menate, fattele leccare zio, o se proprio non vuoi, almeno ora lo sai, lei vuole che le lecchi la figa, e si fa problemi perché quando prende iniziativa tu la rimbalzi e lei si prende a male, e si fa problemi a domandarti di leccare, ma ora lo sai, ora vedi cosa devi fare, apri la tua mente, espandi il sesso orale, che bene mi farà. Danza piccarda. Beh Luca, ti è piaciuta la canzone? Molto, molto, sì. Molto evviva. Vuoi dire qualcosa a Laura? Niente, che la amo e aspetto la sdrenata anche per lei, visto che gli ho mandato una mail anche per lei. Ah, purtroppo hai mandato una mail, ah, ok. Eh sì, anch'io, dai. Siamo due fan di Radio 105, dai, dello zoo soprattutto. Comunque alla fine c'avevi due palle normali, poi non sembra. C'è un di Swarovski, fatele leccare. Comunque leccali la a lei, che sennò è tutto un problema in famiglia, poi, capito? Assolutamente sì, d'accordo, farò così. Eh sì, che comunque abbiamo dato un'occhiata alla tua foto, alle palle che ci hai mandato, e sembrano normali, insomma. Perfetto, perfetto, mi fa molto piacere, aspetto le vostre allora. E dove le vuoi, in bocca o in culo? No, no, stai bene Luca, e fai un po' di ginnastica con gli uomini. Ciao Brieche, grazie. Ciao. Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Mamma, quanta ignoranza! Non avete idea dei messaggi? Andate a leggervi i messaggi. Uno ha scritto: ma che cazzo dici, Marco? Siamo stati creati uomo e donna, no gay o lesbica. No, dai, ma, non puoi essere. Ma sai che fai veramente cagare? Fai proprio schifo al cazzo. Ma chi sei tu per decidere? Ma chi sei? Ma tu chi cazzo sei? Probabilmente vivi a Vizzolo Predabissi, capito? In una casa tristissima, con la macchina triste, e per te essere gay è un male, ma vai a fanculo. E invece, sorpresa, il messaggio l'aveva scritto Dio. Pensa. Davizzolo, è il momento di diventare nuovamente amici e ragionare su una cosa molto importante. Sì. Ci hanno offerto la possibilità di andare a trasmettere da un villaggio a 5 stelle a Punta Cana. Che ne dite di chiudere questa stagione ai tropici? Giusto? Giusto? Mi piace, esatto. No, uno ha scritto: allora giustifichiamo anche i pedofili. No, quella è una malattia. Che cazzo dire? Però non è amore, quella è una malattia, scemo del cazzo. Madonna, dov'è il tirapugno automatico? Pezzo di me, madonna mia, ti scoppo la bocca. Questo è lo Zoo di 105. Cosa hai detto? Ma che? Già, zio, ma quanta lei sta dentro? Già la cifra, sta tutto qua. La paura. In diretta pure in zona rossa, la frequenza che ti dà la scossa, ti spolpiamo come una ragosta, nello zoo c'è solo gente tosta. Guardi in faccia la realtà, se mi premi da 20 anni lo sa anche la costura. Se cercavi quelli pazzi senza un po' di dignità, è perché facciamo panico, panico, paura. E meno male che li fermi, se non questi in 20 giorni vanno sicuro nei cazzi. Se pensi che Mazzoli per bestemmi 420 prende Fabio dalla spalla e gli ripete perché tazzi. Smettila di bere, se no Paolo ti dà schiaffi. Wonder che ti mixa sopra i piatti, senti c'è lo Zoli 105 dentro i taxi. Non conta il linguaggio ma il podio su cui ti piazzi. Inizio. Giuseppe, buongiorno! L'ha visto passare! È passato di qua, dov'è? Lei lo ha visto passare? Ma mi scusi, lei l'ha visto? L'ha visto? Era qui, un attimo fa! Mi scusi! Ma io l'ho visto, era qui, era qui! Io non l'ho visto passare! Mi dice se era lui o no? Era lui! Ma chi? Avete visto Peppe? Avete visto Peppe? Io non l'ho visto Peppe. Ma avete visto Peppe? Avete visto Peppe? Avete visto Peppe? Io non l'ho visto Peppe. Lo avete visto Peppe? Avete visto Peppe? Mi stai sui coglioni. Sai che è la più grande godurgia della proprio della mia vita. Io amo star sul cazzo alla gente. E poi te ovviamente non li vorrai mai richiamare, giusto? No. Io li vorrei. Allora io veramente te lo chiedo. Io vorrei fare una puntata solo con le telefonate in onda di chi ci odia. Che bello! Vi mangio il fegato. Porca sono troia, più che altro bello. Dei cacasotto. Cioè se li no, togli ma sai cos'è? L'ecosistema del messaggio. Allora, uno ha scritto: tutto ciò che va contro natura è sbagliato. Sai che cos'è che va contro natura più di tutti? L'essere umano, testa di cazzo. Quindi prima di giudicare quello che è giusto o sbagliato nel mondo, diciamo, sessuale, dovresti pensare che l'essere umano è il primo ad andare contro natura. Basta rispondergli con scientificamente, ci sono animali in natura che praticano il sesso fra stesso posso genere. Posso rispondere ancora più semplicemente? Bonobo, mi spieghi cosa c'è di naturale nell'iPhone al quale stai scrivendo? Perché alberi di telefonini ancora non ne ho visti. Ma infatti! Alberi di WhatsApp non ne ho visti. È un ragionamento non di ma il discorso del contro natura è l'essere umano che è già contro natura, perché noi abbiamo distrutto quello che abbiamo ricevuto in grazia. Ma cioè, il mondo sarebbe un posto meraviglioso. No, noi abbiamo bisogno di cosa costruire. C'è di naturale negli allevamenti intensivi? Cioè, non c'è niente, infatti. Niente. Quindi che cazzo vuoi? Ma sì, vabbè, lascia stare. Comunque, dammi una base invece dolce. Voglio calmarmi un attimo perché voglio raccontarvi una storia e sto per ospitare una persona che mi ha colpito molto. Allora, sapete che è nato questo nuovo social network che è già mezzo morto, sta vivo in Italia perché la gente in lockdown e quindi si annoia ed è, devo dire, è un modo per tenere compagnia. Portinaia che non hanno un cazzo da fare. Ma no, in realtà è un luogo in cui ci si incontra e si chiacchiera, non si basa tanto, all'inizio non si basava tanto sull'immagine, ovviamente la gente cosa fa? Pubblica il proprio profilo con una foto estremamente attraente, questo vale sia per gli uomini che per le donne. Tutti single senza figli, gente che non ha un cazzo da fare. Chiacchierano all'interno di queste stanze, si chiama Clubhouse, e all'interno di queste stanze si parla o di robe scientifiche o di puttanate, soprattutto di puttanate. E all'inizio, proprio quando ho affrontato questo nuovo social, perché io sono un curioso per natura, all'interno di questa stanza c'erano personaggi di ogni tipo, cioè c'era Red Ronnie, poi c'era Luca Argentero, poi c'era un produttore, cioè c'era di tutto. Adesso c'è solo Red Ronnie in tutte le stanze. è incredibile come lui faccia essere ovunque contemporaneamente. Non mi aprite la ferita di Red Ronnie che ho cercato. Lascia stare, no, la cosa assurda è che a un certo punto nella stanza entra questa ragazza che ha colpito tutti, è diventato un po' il simbolo di Clubhouse. Io parlo delle stanze italiane. Lei si chiama Brielle, è una ragazza molto giovane, e a un certo punto se ne esce da una discussione sulla musica, tra l'altro. Io non vengo mai, non ho mai trovato un uomo che mi fa godere, mi masturbo 6-7 volte al giorno. Ho detto, orca troia, eccola qua, ho detto, questa è la donna per noi. Tra l'altro è estremamente simpatica. simpatica, non si offende, quindi possiamo andare anche giù abbastanza pesanti. Uh-huh. Ho deciso di ospitarla perché secondo me lei è la versione 2021 di Santina. Sapete che Santina si... Ma è un complimentone, si... No, si trapanava il bulbone dalla mattina alla sera fino agli 80 anni, poi ha smesso per ovvi motivi. Perché cade allora, a pezzi. Ve la presento, si chiama Briella, io ci ho già chiacchierato tante volte su Clubhouse. Ciao Briella, come stai? Buongiorno. Ciao, benissimo. Ho appena finito di masturbarmi per essere carica. Ah, ecco, qui allora, ti sta scivolando il telefono. Allora, Briella, no, no, Briella. Vibrazioni, vibratori. Ah, se non mi sentite, perché ogni tanto me lo metto dentro su vibrazione. No, quindi... aspetta un secondo. Allora, ti ho chiesto cortese, almeno la prima volta, non masturbarti al telefono. Okay, un attimo, so. Cioè, sei di Torino? Sei di Torino? Sì, si sente. Sì, un po' sì. Allora, lei è di Torino, però vive a Milano, quindi se siete interessati. Esatto. Zona? Eccolo lì. Zona bassa, vicino a via Filippo Turati. No, ma allora puoi ripetere, perché detto da me ha un peso, detto da te ne ha un altro. Nel senso che tu lamentavi il fatto che, nonostante tu abbia avuto diversi rapporti con uomini diversi, non hai mai raggiunto l'orgasmo, cioè non provi piacere. Oddio, raramente. Solo raramente. Che magari lo raggiungevo una volta, ma con lo stesso la seconda volta magari non succedeva. Quindi, come cazzo, è possibile. E quindi questo ti ha causato, bene, diciamo, una passione sfrenata per i vibratori. Lei ne ha milioni a casa, da quello che ho capito. Esatto, tra l'altro. Alcuni costano anche 200 passa euro, quindi quanto spendi di elettricità? Ma senti, anche parlare di sessualità con te sarebbe scontato. Senti, tu cosa ne pensi delle matite a tratto HD o B? Cioè, perché la matita fine un po' a punta dura non rende nella sfumatura del disegno tipo a mano libera rispetto a una pasta morbida della matita HD? Non c'è un cazzo, fatela rispondere, ragazzi. Stai parlando con me, non so, io non sono brava col disegno, con le matite, uso i pennelli. Solo lei usa i pennarelloni. Io sì, va bene, era solo per ampliare il discorso. Sì. Ma chi te l'ha chiesto, Paolo? Va bene, io volevo conoscerla. Voleva portare la discussione a una roba un po' più sull'arte. Okay. Ma ascolta un attimo, tu adesso sei attualmente fidanzata o no? Cioè, c'hai un compagno? Single. Sei single, strano. Però ti piacciono gli uomini sposati? Può dire. Chiavicchi in giro, però, da quello che hai raccontato, giusto? Cioè, vabbè, io ho un tromba amico, chi non ce l'ha al giorno d'oggi? E lui non ti fa raggiungere l'orgasmo, per esempio? Allora, lui è bravo a leccarla, riuscirebbe anche mentre me la lecca, soltanto che gli spiego che devo usare sia la lingua che le mani. L'ultima volta che glielo ho detto si è fermato con la lingua e ho iniziato a usare le mani. Poi io ho detto scusami, se io ti dico insieme, devi usarle insieme, non è che ti fermi. Ma aspetta, perché c'è una roba di Briella che ha scioccato tutti. Allora, sì. Lei fa un gioco: quando invita un uomo a casa sua, lei, se non gli piace questo qua, praticamente non ci fa nulla. Ma lo conduce Carlo Conti? No, aspetta. Allora lei, siccome ci rimangono male, giustamente, vabbè, quelli che vanno a casa sua, lei gli dice: vabbè, facciamo un gioco. Spiegalo tu, qual è il gioco? Vai. Allora, io porto a 4, avete presente il gioco porto a 4? Sì. Ecco, e dico: se tu facciamo una partita quindi io la vado a stacca. Sì, se vinci a porta 4, ti faccio un fellaccio. Aspetta, per i nostri ascoltatori, è in provincia di Ravenna? Sì. No, quando Lazio è nel Lazio. No, è il panino, è uno dei panini che sta sull'autogrill. Ah, quella base di provola. Un bombino, va meglio. Un bombino. Ah, un bombino. Un bambino, ti faccio un bambino. Esatto. E no, quante volte hai perso il gioco per sapere quanti ne hai dovuti fare? Mai? Ah, ok. Mai. Quindi parte la sfida. Ci abbiamo un forza 4, squadra. Allora, visto che sei entrato in questo argomento, sempre per allargare un po' il discorso, tu come la vedi la partita Cluedo? Cioè, tu preferisci quella tipologia di giochi di società dove si approfondisce, non so, tipo il crimine, oppure magari anche indovina chi? Come la vedi? Tu sai, Paolo, ma chi se ne frega? Ma una volta che possiamo... voglio forza 4, ma sai perché? Perché quando tu dici sta cosa, l'uomo pensa: cazzo, è impossibile che perda con questa bionda scema forza 4. E invece lei... fare anche il pompino, invece, invece che pensate al pompino, perdete. Senti, scusa, sì. Siccome io sono molto concentrato su questa cosa, ma quando è patta, nel senso, come si fa? Se ne fa un'altra o? Si prende la giacca e se ne va. Cioè, no, quindi tu vinci anche in caso di pareggio. Certo. Non esiste il pareggio in forza 4. Come sì che esiste il forza 4? Ah, è vero, non ci siamo mai arrivati. Tu sai allora, di che specie è il gufo di Harry Potter? Una civetta. Il mio. Allora, Briella, qua c'è gente che si sta proponendo, arrivano messaggi però di ogni dico tipo. Che... Sì. Tipo, dico che dopo aver detto sta cosa su Clubhouse, tutti sono lì a guardare tipo i trucchi per Forza 4. Ah, hai capito. Cioè, perché qualcuno, ma qualcuno ti ha mai battuto a Forza 4? Perché è importante sta cosa. Cioè, qualcuno ha mai vinto un pochino? Da piccola perdevo sempre il circuito che mi arriva a me. Senti, Briella, ma hai provato a non invitare a casa solo Neanderthal? Cioè, anche persone col pollice opponibile, una licenza media superiore. No? Perché, sai, Forza 4 è un gioco di. Senti, Briella, te lo ricordi il modello Fabio degli anni 80? Chi era? Quello col mento? No. Neanch'io. Sono andata leggermente dopo, quindi non me lo Senti, Briella, come possiamo aiutarti? Nel senso che io mi sento, mi sono sentito in dovere di darti una mano, perché se, mi sembra una ragazza, non sei tu. Qualcuno che vinca. Ma Marti, devi dare una mano e anche la lingua. Sì, no, nel senso che tu. Insieme, mi raccomando. Ma tu stai cercando un fidanzato o invece vuoi continuare questa ricerca della chiavata perfetta? No. No, voglio continuare questa ricerca della chiavata per adesso. Ah, ok. Allora, facciamo una cosa: noi ti ospiteremo di nuovo e vorremmo che tu provassi i vari vibratori che hai in casa in diretta per vedere qual è più efficace, insomma, quale funziona. Mi cambi la base, mi sta venendo l'ansia. Madonna, sta base. Allora, solo che poi la bolletta me la pagate voi che sto mettendo tutti in carica. Ma scusa, ma i tuoi vanno a corrente o a batteria? No, sono solari. Infatti, il pannello è un casino farlo entrare. Sono della Dyson, credo. Senti, ma tu preferisci la salsa e merengue o come ballo latino solo il reggaeton? Scusa Paolo, ma il reggaeton. Ah, immaginavo. Vedi, c'è tanta gente che si propone altri. Ah, che donna immondizia. Vedi, perché purtroppo ci sono delle donne. Qua si torna al discorso di. Anche su Clubhouse. Sì, certo, ci sono delle donne che dicono: ah, una che parla così è immondizia, è una zoccola. E come è successo, tra l'altro, se non sbaglio, Red t'aveva insultato, esatto. Anche. E lei non se l'è presa. Ma alla fine, scusa, ma no. il sesso è una roba. Ma io prendo meno cazzo io di d'oro, perché io non scopo dal 19 febbraio, vedi, purtroppo. Ma sai suonare la chitarra? di quale anno, scusa? Di quest'anno? L'anno o dell'anno scorso? No, di quest'anno. Ah, come Marco. Sì, magari, dai, scherzavo. Senti, Briella, ma tu, diciamo, per le tue sessioni di masturbazione ti avvali solo di moderne tecnologie oppure ogni tanto hai quel momento vintage in cui ricorri, che ne so, alla spazzola, all'Oral B, al cetriolo? Cioè, non ti prende mai il momento vegano, no? Aspetta, ti spiego. Tra l'altro, due settimane fa ero andata in Valle Terme di Abano, mi ero dimenticata il caricatore del vibratore. No! E io la sera... E l'ho intassita, ho detto: no, ma io le mani non le so manco più usare. Come faccio? E come hai fatto? E quindi ho ordinato un vibratore, quello da 200 euro, che mi è arrivato la mattina dopo in reception. Okay, e ma per porca fortuna la confusione. Ma secondo te, anche secondo te, la spartame fa male? Perché aspetta, non lo mettono più nei bar, vero? Ragazzi, ma a Milano dove, che sono il re del Forza 4? Qua arrivano proposte. Briella, mi sa che ti troviamo veramente qua proprio un bacino. Facciamo una partita di Forza 4 tutti insieme. Facciamo una partita di Forza 4 sotto la radio, dove c'è la fontana. Quello che vince, esatto, gli fai il bocchino in diretta, insomma, vabbè, tanto è una roba. Facciamo la regina del Forza 4 come la serie TV di Netflix. Ti fai il caschetto rosso e poi vieni qua a giocare. Allora, Briella, adesso noi raccogliamo tutto il materiale che ci arriva al 342 41 15 105. Ci risentiamo nei prossimi giorni e organizziamo qualcosa per te. Vogliamo salvarti. Però una cosa importante, Briella, allora, sì, ci dovrai comunque preparare una sinossi dell'episodio che ti è piaciuto più della trilogia del Signore degli Anelli. Ma non ce ne frega un cazzo. I nomi, mi raccomando, non i nomi. L'ora. Cioè, riguardateli tutti e ci vibranti. Secondo te qual è il migliore dei Paolo, tre? Ma tu stai parlando con una ragazza bionda, non so cosa pretendi, però va bene. Che sei bionda ancora dobbiamo vederlo, di sopra. Comunque, posso dare il tuo profilo Instagram così ti vedono, almeno la gente ti vede. Sì, The Briella Gram. Non si The Briella Gram. Solo che è privato e quindi non si può non entrare. Non si è capito, credo. Marco, scusa, avevamo tutte le mani occupate. The amici. Facci sentire il vibratore, ne è uno lì portato in mano. Fa sentire, vai. No, vai. No, aspetta. No, sono su in aspetta, camera. Aspetta, ne uno io. Aspetta. Aspetta. No, che schifo, però, Paolo. Mamma mia, però veramente. No, l'ho comprato per me. No. Ma Paolo, c'hai i prolassi anali. Ma che schifo, adesso mi alzo e me ne vado. Ah, sono in piedi. Oh, la Madonna. Questa taglia anche i capelli, eh? Sì. Questa è quella che usa Palmieri per farsi. Serve giusto per accorciare il pizzetto. Ce l'ho anch'io, della Philips. No, della Braun. Senti il rumore? Fa sentire, vai. L'avevo già riappoggiato, cazzo, aspetta. Che era in carica. Vai. Sta mai che rimane senza. Madonna. Sì, è quello che fa i ciuffi. Scusa, ce l'ho io. Ma ti posso fare una domanda? Ma non è pericoloso? Cioè, non ti sei mai ferita? No, non... magari. La Madonna. Ma lì, cioè, è tipo un mini pimer al clitoride. Hai mai pensato di brevettare un caschio piccolino per i clitoridi? Un caschio? Cos'è un caschio? È metà caschio e metà cacchio. Okay. Briella, dobbiamo andare tardi. Grazie per averci raccontato la tua storia. Ci risentiamo in settimana e cercheremo di organizzarti qualcosa, così almeno risolviamo il tuo problema di mancanza di pingone. Ciao Fibriella, ciao! Ciao Briella, ciao. Andata. Fammi risentire il vibratore per chiudere, vai. State facendo fare le corse. Vai. Senti che roba. Arrivo. Motore a scoppio questo. Motore a scoppio. Senti. Vai. Ma cazzo? Cammina perché. Io te lo giuro, guarda che io mi faccio le basette con questo, ragazzi, te lo giuro. A dopo, ragazzi, dai, a dopo, ciao, Briella, ciao. Attenzione, in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Lo zaino, roba fantastica, sono vent'anni al top delle radio chart. Lo zoo spacca tutte Cosmix e lo champagne alla Gazzos. King Kong e Marco Mazzol, pizza merda e Bruno Tremont. Sing Song è passato una Porsche, fai per vomito. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 archivio bot. Yeah, I can never leave, cause I need it, that feeling. importante adesso, dai, via, via, via, via, via, via, via, dai, dai, no, così è troppo, così mi lasci da solo, cazzo. Non c'è dato il tempo neanche a mettere le cuffie. Ma la brutta persona, non lo so, prepara una base, una roba. Che brutta persona. Tutto che quello che vuoi, amico. È bravo a fare le marchette, però ogni tanto mi perde i colpi. Io le marchette. Allora, Pippo, aspetta un attimo, scusa. Allora, ieri per esempio è la seconda volta, sono testimoni i colleghi, che ti dimentichi di mandarmi i blocchi per fare la scaletta. Sì, del però dopo. C'è stata una cosa strana, c'è qualche complotto su di me, perché ti ho mandato il file giusto. Sì, ma me l'hai mandato dopo che mi sono lamentato un'ora e mezza a aspettare che tu mi mandassi i blocchi. Cioè, una io c'ho anche una vita, cioè c'ho da fare un sacco di soldi. Ti blocchi sui blocchi. Mamma mia. Comunque, scusate, allora, piccola parentesi, Puccioni, torna qua un secondo invece di fare le stories. Vieni qua al microfono, cos'è successo? Che noi prima abbiamo detto: ospitiamo qualcuno in onda che non è d'accordo con noi sul fatto che l'amore non deve avere limiti. E che le unioni gay devono essere anche celebrate in chiesa, perché no? E benedette dal Signore. Nessuno ha avuto il coraggio di rispondere e venire in onda, vero? Diciamo che quelli più accaniti nel mandare i messaggi, come al solito, si sono rivelati dei grandissimi leoni da tastiera, perché non rispondono, e invece quelli con posizioni più moderate non ci interessavano. Allora, ragazzi, è la teoria dell'abitacolo della macchina. Se dentro la macchina, se ti passa uno, gli dici: oh, pezzo di merda. Se scendi, vedi che stai zitto. Oppure prendi una rivolverata. Dipende anche dipende in che zona sei, in che paese sei. Anche dalla macchina. Sei un nano armato. Vorrei dire una cosa a quelli che negano la possibilità di amarsi fra uomini o fra donne. Vorrei vedere se avreste il coraggio di dirlo in faccia a una coppia innamorata gay. Perché io, inizialmente, come tutti, sai, più invecchi, più maturi. A volte diventi peggio, a volte diventi una persona migliore. Io non so che cosa sono diventato. Però tanti amici gay. Paolo, per esempio, ha una coppia di amici gay. Ah, pensavo che sono Paolo. No, che sono anche nostri amici. Vedere come si amano queste due persone veramente ti sembrano umani, vero? Dai, vai, li guardi come quando guardi. Posso fare una precisazione? Certo, per quanto riguarda questa decisione del Vaticano, sottoscritta anche dal Papa, ovviamente. Sì, la questione è sacramentale, nel senso, non viene riconosciuta la benedizione al sacramento del matrimonio. Ma perché? Perché la Chiesa, in quanto comunque una istituzione piuttosto anzianotta, cioè ritiene che la famiglia sia il luogo dove vengono generati dei figli, senza nulla togliere agli altri. E infatti il Papa ha riconosciuto le unioni gay. Solamente la Chiesa, la Chiesa dovrebbe cambiare un po' la soluzione. Ci sono un sacco di bambini che non hanno dei genitori, possono essere accuditi da una coppia gay. Ma la Chiesa non dice di no, non li benedice, non gli impone il sacramento. Sapete cosa sono i sacramenti? Che cazzo me ne frega a me della benedizione? I sacramenti sono una cosa nella quale la Chiesa ci crede, punto. Cioè è una cosa che va avanti, è temporale. Vedi, queste sono le cose che instillano poi l'odio nelle persone. Un attimo, c'è Schubert che ci sta deliziando. Prego, maestro, la canzone dell'Ave Maria. Maestro, ma cosa gli è successo? Aspetta, ci penso io, No, la scorreggia mentre fa la preghiera. Faccia glielo fa. Sei una merda. Ma avete visto il servizio alle Iene di Gaston Zama con Brosio, la fidanzata, che sono andati a Međugorje? No, belli. Andatelo a vedere. Sono tornati a Međugorje perché? Un'ora e venti, no, perché lui ha portato la sua fidanzata giovane. No, dovete vederlo. Hanno trovato chiuso. No, era aperto, maestro. Era aperto, andatelo a vedere, è meraviglioso. Comunque, io lo stimo Brosio, perché comunque, a parte che si fa una fica della Madonna, nonostante sia ormai un po', diciamo, dopo essersi limonato come si chiama, c'è chi paone, sai? Sì, ma è quello che lui ha chiesto alla Madonna, eh? Cioè, lui è andato a Međugorje apposta, gli ha detto: oh, ti prego, una fica, prima che muoio, dammene una figa. Ma tra l'altro, lei non è neanche stupida, cioè, una ragazza intelligente, dice delle cose intelligenti. Sì, vedi, l'amore non ha confini. Magari è vero che è andato a Međugorje e ha chiesto alla Madonna un miracolo. No, è andato a dire grazie, fratello. È andato là perché dice: io devo stringere la mano a Dio di persona, gli devo dire: oh, grazie. Gli ha portato una bottiglia di sassicaia, gliel'ha messa lì sull'altare. Ha detto: grazie, zia, cazzo. Vabbè, comunque, vedi, anche in quel caso lì, perché non portare rispetto a chi crede? Io porto rispetto a cioè ognuno, secondo me, deve essere l'importante è che tu non faccia male al prossimo. Per il resto ti piacciono gli uomini, ti piacciono le donne, ti piacciono i cani, che cazzo te ne frega a te? Finché non faccio del male a te, che cazzo vuoi? Vivi la tua pidocchiosa vita, Vizzolo Predabissi, e non mi rompere i coglioni. Sai che va bene? Il mercato di Vizzolo sta calando. Come quelli che vengono, quelli che mi dicono: ma come fai a amare un cane? È un cane. Ma vai a fanculo, il mio cane è 100.000 volte meglio di te, molto più intelligente di te, è molto più intelligente di me, ma soprattutto di mia moglie. Il mio cane, se potesse, se gliene fregasse qualcosa, guiderebbe la mia macchina, ma non gliene fotte un cazzo perché è superiore. Comunque, vai a fare il culo. Il tuo cane ha votato Biden, so io, da in sintesi, certo. C'è una roba che noi ci portiamo avanti da anni, fatti i cazzi tuoi e campi 100 anni, fatti i cazzi tuoi. Tu non sei un cazzo di nessuno per dire a un altro cosa è giusto e cosa è sbagliato. Scusa un attimo, e vale che per c'è tutte notaria, un attimo. Basta, Paolo, basta scorreggiare, però. Ragazzi, non so cosa mi è successo, aiuto! Io sì, devi morire. Ma io non so cosa ti è successo, ne fai 2000 al giorno, non so cosa mi è successo. Oddio, dai, 30 secondi che finalmente ridiamo in questo programma. Ridi, ridi. Meraviglia, ragazzi. Passa tu la mascherina. Allora, intanto quelli che scrivono che noi bestemmiamo e non portiamo rispetto a chi crede, non è vero, non perché è vero. Non c'è prova, perché quelle parole bippate potrebbero essere verdure. E poi verdure. Noi ragazzi vi ricordo sempre che siamo in un paese laido e possiamo laico, quindi laico. Anche laico, ma laico. Ah, laico. E quindi cosa? Quindi no, cosa? E infatti come roulotte abbiamo una laica. Bravissimo. No, allora, sai che comunque l'Italia è l'unico paese che punisce la blasfemia, perché non esiste la bestemmia. Ma si vede, guarda, i veneti sono tutti in carcere. No, andiamo avanti, no, nel senso che ti potrebbero punire, perché bestemmiare è una cosa sbagliata da fare. Ma è brutta ovviamente. Da sentire. Ma è brutta da sentire, è quello, è brutta. Disse da quello sentire. Che scorreggio ogni 2 minuti e 20. Ma senti, c'ho un nano che mi spara. Ragazzi, ma dai, fate ridere. Beh, il maestro, fate ridere. Dai, diamo allora, spazio al diverso. Dai. Allora, una un po' per abbassare i toni. Allora, c'è un bimbo che... Scusi, maestro, ma Marco si sta percuotendo le chiappe grigie. Non so per indicare che cosa, un messaggio in codice con gli altri primati del branco della savana. Sto dando ritmo al maestro. Sì, allora, va bene anche un metronomo. C'è un bimbo che purtroppo ha perso i genitori. Madonna, orfani, mutilati, dereliti. Purtroppo, e va, allora va da un poliziotto e fa: scusi, poliziotto, ma adesso divento come Batman? Ma no, quello è un film, testina. Ah, neanche c'è. Finale orribile di un fogliettone agghiacciato. Madonna, l'attinenza con questa base. Prego, un altro. Prego. Allora, un altro. Sai come fanno a comunicare i lupi quando sono molto distanti? No. Con il cellulare. Cellulare. Ragazzi, quest'uomo è devastante, vi rendete conto? Senta maestro, ma dove si vestono i lupi? Non lo so. A Lupim! Alla... Lupim! Non c'è più. Bravo, quella catena. Fabio, sei. Allora, vado? Vada, certo. Allora, dottore, credo di avere un verme nell'intestino. Solitario? Ah, pokerino, dai. Siamo retrocessi, vero? Sempre peggio questa cosa. Cioè. Bella questa. Vediamo se solitario. Vediamo se c'è qualche messaggio. Sì, sentiamo. Sentiamo, ci sono tanti messaggi per Briella. Certo. Cazzo, ce n'è uno però, aspetta. Come fai a vederlo otto? L'ho trovato, avevo d'occhio, lo riconosco. E casualmente ha la voce uguale alla tua, è pazzesco. Allora, proviamo. No, stavolta l'ha fatta bene. Sono un regista teatrale. Maestro. Dalla sua grandissima cultura cinematografica le chiederei un favore. Sì. Divento papà anch'io. Ecco. E quindi devo dare un nome a mio figlio. Io sono Ermenegildo Came. Came. Regista teatrale Came. Chiamalo Came. Rino. Sì. Came. Arriva un po' dopo, arriva un po' dopo, ma quando arriva è la botta. 2023. È come quella riga, capito, che sembra che piccola, ma non è così. Sì, la battuta AstraZeneca, che non sei proprio sicurissimo. Però quando arriva, arriva. Arriva. E ridi, stronzo di merda, ridi un po'. Ma lui sta lì, col suo cazzo di mezzo culo. Col suo mezzo culo. E scorreggia anche male. Quando scorreggi tu, dobbiamo ridere. Cioè, non pretendo tanto, anche perché io subisco delle aggressioni da parte di un fantasma con un fucile. Io sono perseguitato, ho uno spirito che mi spara mentre io vivo la mia vita. Una gastrite che viene da un'altra dimensione, vengo aggredito e voi mi sottovalutate. Certo. Io sto vivendo un incubo come quello del Sesto Senso. Io ho un fantasma di un bambino che scorreggia con un piccolo fucilino che mi spara alla schiena. E la puzza chi la fa? Lo zombie? Perché i morti puzzano, vedi che sei ectoplasma, dicono che gli ectoplasma puzzino. Sì, puzza. Ma questa è ectomerda, però, a giudicare dalle è il rectoplasma. Uno dice: avete ragione, condivido tutte le vostre idee, ma ci saranno sempre meno nascite. Ma meno male, siamo in troppo. Ragazzi, voi non avete capito, questo non è uno scherzo, veramente. Siamo in sovrappopolazione, questo pianeta non ci sopporta più. Stiamo rischiando di arrivare a un numero di persone presenti su questo pianeta che il pianeta non può più sostenere, quindi è meglio così. Ma poi, rallentiamo, cioè, se non potete fargli vivere una vita degna a sti bambini, non li fate, ragazzi. Infatti, per chiamarli camerino, cioè, non li fate. Non li fate per farli vivere una vita infame e poi separarvi dopo 5 giorni. Cioè, non è che c'è scritto che per forza di cose devi continuare la tua specie di merda che è nata a Vizzolo Predabissimo. Esatto. Capisci? Cioè, non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno. Cioè, non è che proprio è necessario avere un altro essere inutile sul pianeta Terra. Porca troia. Prima che finiamo un miliardo e mezzo di indiani, ragazzi, ci vorrà di tempo, no? Ma mangiamoceli, sono speziati, io l'ho sempre detto. Cazzo, tanduri spacca. Madonna mia, lo butti sulla griglia, ma sai che buono? No, già il forno, speziato. Il forno tanduri spacca. Ah, uguale, il forno no, è una ricetta che non è andata fortissima negli anni, no? Arca, poi uno ha detto, uno ha detto che io prima ho detto che non sono razzista e ce l'ho a morte coi cinesi e coi cubani. No, io non sono razzista, io ce l'ho a morte coi cinesi e i cubani, basta, non è razzismo. È una faida, non è razzismo. È una faida, esatto, è una guerra. Ma avete visto il video che ho postato ieri dei ragazzi che vanno a pulire le spiagge? Lo schifo che fa la gente, ma è una roba. Cioè... No, Marco, perché appena vedo spazzatura cambio. Cioè, ma che ci vuole di stare mezz'ora sul tuo profilo a vedere cessi che galleggiano? Paolo sa di cosa parlo, cioè è un piccolo paradiso, veramente, spiagge bianche con l'acqua trasparente, la gente butta l'immondizia in mare, cioè c'erano bottiglie, robe che galleggiano. Allora non è un paradiso. E la città di Miami, il sindaco nuovo che definivano Water Warrior, il guerriero dell'acqua, l'hanno eletta proprio perché volevano una persona che difendesse la baia e il mare, se ne batte il cazzo. E allora, è lì a pensare al mese di quelli di colore, e la settimana delle donne, e quello del cane, e quello non ne frega un cazzo, niente, proprio basta. Sicuri eletta, che non l'avete letto, frate Indovino? Perché mi sembra una persona che ce l'ha tanto col calendario, no? Ma vaffanculo, guarda, vergogna, vergogna. Mi toccherà anche questo fine settimana andare a raccogliere la merda di questi. E quello sa che voi pulite e non fa nulla. Certo, ma devi vedere che pezzi, poi brutti, con le canottiere, brutti, grassi, con ste donne, con sti culoni dietro, tutti tatuati. Sì, che poi non è razzismo, ma quelli che fanno proprio così, che buttano in acqua la cazzo di cane, io li ho visto sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Due, sono Gheorghe. No, sono quelli che arrivano, what's wrong, io, what gonna why? Pensano che sia figo, capito? Tutti Alberto Sordi sono. Sì, sì, sono ribelli loro, pensa che geniacci, figli di puttana, ma tanto guarda, li troverò. Non li troverai. No, è meglio di no, li troverai. Paolo, lo sai che io ho due amici che mi accompagnano adesso anche in moto d'acqua, sono due amici di ferro, e io prima o poi finirò in galera, ma mi toglierò sta soddisfazione. Dai, poi bisogna fare tutta la campagna in onda, tiriamolo fuori, poi il servizio delle Iene. Marco Forti non è caso. Gaston Giama, non scherzare su quella roba lì, perché purtroppo la situazione è veramente delicata. Ma si è fermata di nuovo. Sì, guarda, mi ha scritto l'altro giorno. Pensa che adesso non gli fanno più scrivere in italiano, quindi mi deve mandare le mail in inglese, io devo rispondergli in inglese perché gli vietano di ricevere e di spedire mail. Abbiamo peggiorato la situazione alla fine. Madonna. Cioè, i politici italiani che si sono mossi, Di Maio e tutti gli altri, hanno peggiorato la situazione, perché lui è ancora dentro, non se ne parla più di farlo uscire in questo momento, e addirittura gli hanno bloccato la possibilità di scrivere. Ma che angherina è, scusa? Di far telefono. Perché c'è qualcuno a cui sta sul cazzo. C'è ancora qualcuno che lo vuole tenere dentro. C'è qualcuno che frena questa roba. Probabilmente era ai vertici in quel periodo e adesso è ancora più in alto. Può darsi. È Biden. Non è Biden. Ma è qualche sbirro qua. È qualche sbirro di Miami a cui stava sul cazzo. E niente, è così, raga. Ma è una roba veramente triste. Comunque, vabbè, parlando di robe tristi e parlando di odio e faide tra me e i latinoamericani, c'è una serie televisiva però che mi ha catturato molto bella, questa telenovela dedicata a questa ragazza che si innamora di uno. Il problema è che lei puzza tantissimo, lei puzza d'amore proprio, lei è puzza d'amore, fete E tra l'altro si scopre qualcosa, un meccanismo strano all'interno di questa puntata di oggi, che in realtà è divisa in due. Però attenzione, perché Fernando, che è l'uomo di cui sei innamorata, ci svela un segreto che nessuno si aspettava. Il colpo di scena della telenovela. Scolleghiamoci, grazie. Andiamo. Lo Zoo di 105 presenta Rosalinda. Nella puntata precedente, Rosalinda, quale vuol venticello? Sono venuta a portare fiori al signor Romero. No. Purtroppo me li sono. È una vita tremenda, so, perché lei è inconsapevole. Nella puntata precedente, purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti. Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio e senza Romero che vomita. Ha cambiato la battuta. Amor. Gonzago, amico mio caro, oggi io e Fernando usciremo per il nostro primo appuntamento. Guarda, sono andata alla discarica a prendere un reggiseno nuovo. Che dici, mi sta bene? Ma quello non è un reggiseno, sono 2 topi morti legati per la coda. Esatto, molto creativo, vero? Sento che sta per lanciare una nuova moda. È vivo, uno dei 2 top. Questo apatico bastardo. È vivo, uno dei 2 top è ancora vivo. Oh, no, Gonzago, ammazzalo. No, mi fai schifo, non voglio toccare. Si è ringraziato il cielo, è morto per la puzza della mia ascella sinistra. Madonna mia. Cosa stavamo dicendo? Hai bisogno di un bagno nell'acino. Rosalinda, non allarmarti, ma c'è un verme. Ma perché poi lui continua a avere un rapporto con questa persona? Infatti, vai via. Perché? Cioè, snobbala. Rosalinda, non allarmarti, ma c'è un verme gigantesco che ti sta uscendo dal naso. Ma non preoccuparti, quella è la mia colazione. Buonissimo. Mi si è aperto anche a me un bocchino nello stomaco. Comunque, ma scusa, ma fai colazione con i vermi che ti escono dal naso? Certo, io ci tengo all'ambiente. Hashtag chilometro zero. Intanto al ristorante dell'amico Romero, il bel pianista Fernando suona Note d'amore, attendendo la folata di taleggio avariato che preannuncia l'arrivo della sua amata Rosalinda. Romero, questa attesa mi sta uccidendo. Stavo per dire la stessa cosa. Ecco, sì, è sempre una grande soddisfazione parlare contigo, Tomero Morero Storero, come casa del Ciami. Fra poco Rosalinda corroderà quella porta e finalmente usciremo per il nostro primo appuntamento. Stavo per dire la stessa cosa. E se puoi dire un altro ogni tanto, giusto per variare un pochino la conversazione. Mi raccomando, non farne parola con nessuno, Romero. Se mi madre donna Valeria del Castillo d'Arena su Playa de los Nudistas con la polla erecta venisse a sapere che frequento una donna sposata, mi cancellerebbe dal testamento. Stavo per dire la stessa cosa. Non la dovresti dire però, perché sennò donna Filomena Giracazzone se mi fa un masso tanto. Oh cazzo, il canarino è smuerto. Stavo per dire la stessa cosa. Questo può significare solo 2 cose, Fernando. O c'è una fuga di gas in corso, oppure Rosalinda è a meno di 1 chilometro da qui. Porca troia. Stavo per dire la stessa cosa. Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di Rosalinda. Rosalinda. quando muori anche il cane di ceramica è sui 100 metri. Porca troia. Mamma mia. Però si scoprirà un segreto grandissimo, Però non dirlo, se no spoileri. Hai ragione. Mettiamo un bel disco adesso, scelto da Pippo Palmieri. È entrato nella stanza. Silenzio, lì. Mi ha sparato il corno. Non c'è chi, no? Non ne sbaglia uno. Mi colpisce sempre. Sempre lì, tra l'altro. Voglio aiutarmi, sotto i miei amici. Ma com'è che lui spara, c'è puzza e poi sparisce la puzza dopo un po'? Perché il cadavere è in putrefazione. Comunque ha ragione un ascoltatore, dice che non lo faranno uscire o hanno paura di far uscire Chicco Forti dal carcere, perché una volta che lui viene riportato in Italia ed è libero dagli Stati Uniti, potrebbe iniziare a cantare, nel senso a raccontare la verità su alcune persone, e potrebbe far scoppiare un caso e magari mettere in difficoltà chi lo ha incastrato, e quindi magari è quello il motivo per il quale non vogliono farlo uscire, perché potrebbe parlare. Cioè, comunque lui è stato messo in carcere perché legato a una storia legata alla morte di Versace, cioè c'è dietro tutta una roba. Magari che cazzo, magari addirittura è perché la mafia non vuole che esca, capito? Perché sai che si dice diamo sempre la colpa alla famiglia. Sempre nostra. Allora, quando non sanno a chi dare la colpa, venga sempre a noi altri, ci vengono a rompere i coglioni, una bomba, muore qualcuno. E che sta la mafia. Allora, 25 anni non hanno ancora trovato chi cazzo ha buttato giù l'aereo di Ustica. Hanno provato tutte le soluzioni, minchia, si so, alla fine è andato la colpa alla mafia. Alla fine, ma non si sa chi sa. Sarà stato la mafia. Con le fionde. Sembra a noi ci devono dare la colpa. Allora, invece, qualcun altro ci chiede: ma caro Diario, che fine ha fatto? Vuoi spiegarlo tu, caro Paolo Federico Scorreggino? È stata la mafia. Caro Diario, purtroppo è sospeso perché non ci sono le persone in presenza. Quindi non possono venire qui a fare le registrazioni. Abbiamo provato a farlo telefonicamente, ma non era la stessa cosa. No, allora, poi tra l'altro. Siamo riusciti a fare un'operazione veramente a cuore aperto, sì. Che è costata tantissima fatica di scrittura. Abbiamo fatto venire le persone di Caro Diario, abbiamo registrato le 24 puntate per i cartoni animati che non vedrete mai. Questa è la roba bella. Non è vero. Questa è la roba bella, perché come sempre noi dello zoo siamo la merda. Ma non è vero, è montato, non le vedrete mai. Le montate, però vi garantisco che faremo dei video, io e Paolo, che li riguardiamo guardiamo insieme a Andrea, che è il disegnatore, ridendo, e voi vedrete noi che ridiamo mentre li guardiamo, ma voi non li potrete vedere. Ma non è vero, perché ricordatevi che lo zoo ha la peste. Guai! Guai! Guai! Non è vero, non è vero, stai dando false informazioni. Non lo vedrete mai. Ma non è vero, hai montato quelle 9 puntate. La mafia non vuole, Paolo. La mafia non vuole. Ascolta, mi devi rimandare tutto perché i file che hai girato sono... No, sono corrotti. Ma l'hanno fatto apposta. Ma l'audio sai chi l'ha corrotti? La mafia! Comunque io non ho detto che la colpa è di Di Maio, brutta testa di merda. Ho detto che comunque il fatto che Di Maio si sia mosso in realtà non ha aiutato per un cazzo la situazione. Doveva stare fermo, brutta testa di merda. Non è colpa sua, è che noi abbiamo fatto probabilmente troppo casino e facendo troppo casino abbiamo svegliato il can che dorme, capito? Non è che do la colpa di Maio, che cazzo me ne frega a me, per amor di Dio. Almeno ha fatto conoscere la storia, anche se in realtà non è stato lui, ma ci hanno mangiato poi tutti i politici intorno una volta che è uscita sta cosa che è stata raccontata lì. Magari è sempre una storia che si ripete, un po' come la pubblicità. Esatto. La pubblicità adesso è ritornata, questa moda di utilizzare i jingle, di canticchiare su motivetti canzoni, famosi. Chissà perché. Insomma, avete letto che questo qua viveva in casa con sua moglie morta da diversi anni? Mi ha preso. Tu che programma stai facendo, Marco? Non è RDS, scusa. Non sei coso di angeli morti. Tra poco ascolterete la sequenza mixata di 27 canzoni di film. Maestro. Lei invece che programma sta facendo? Radio Maria. Se facessimo tutto lo stesso per 3 minuti. Proviamo a fare ognuno il suo. Dai, ognuno il suo e Pippo lancia la scenetta. Che ore sono? No, non sono le 6. No, facciamo il nostro. Paolo fa RTL, io faccio RDS. No, io faccio il mio, vai, fate. Alisei, cosa fai tu? Fai DJ, dai. Io faccio Capital, compagni. Ok. Aspetta, io ho detto RDS, quindi non posso parlare io. Aspetta, ah no, tu sei solo musica. Ci sentiamo tra un anno. Ciao ragazzi. Amore, sono a casa. Sono rientrata prima perché oggi sciopero dei mezzi. Cielo, mia moglie. Ma dove sei? Amore. Oh miseria, che imbarazzo. Clara, non è come pensi. Io e la tua migliore amica stavamo solo parlando e ci è venuto un forte caldo. Traditore, vergognati. Avevamo anche comperato una multiproprietà assieme a Varazze. Non ti voglio più vedere. Fuori da casa dei miei genitori, ereditata da mia nonna. No, aspetta. Ti prego, apri la bocca e chiudi gli occhi. Perché dovrei farlo? Fallo, ti scongiuro. E va bene, ma questa è l'ultima volta. Prendi sto salame. Bronchi. Perché mai? E affettalo più fine che puoi. Porgilo al palato. Senti la pepatura. Questo è un salame. Bronchi, del maiale mettiamo anche l'anima. No. Salve, mi dica. Ferma, alza le mani, è una rapina. E voi in coda, faccia a terra e non fate scherzi. Ho una pistola con le pallottole che muoiono le persone. No, ma la prego, non mi faccia del male, le darò tutto ciò che vuole. Dammi anche quell'anello che hai sul dito che sembra vecchio. No, la prego, è un ricordo di mia nonna defunta che mi ha cresciuto perché sono orfana. Non provo alcuna empatia, forniscimelo. Fermo. E tu chi sei? Sono un semplice cittadino che non può stare a guardare mentre una giovane donna attraente subisce un'angheria così evidente. Ma io la pistola e tu solo un bel sorriso. A me gli occhi. Cosa fa? Getta l'arma a terra e arrenditi. Gli anni 80. E mi arrendo. Ecco, signorina, il suo anello, ricordo della sua nonna che l'ha allevata. Grazie, wow! Lei è stato incredibile, ma come ha fatto? Ma nulla, qualche tecnica ipnotista che mi ha insegnato per gioco mio nonno Henry. Ma Potter? Houdini. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo. Sì. Ah sì? E da cosa l'ha capito? Ma dal possente cactus che svetta potente sul quadrante maschio del suo cavaliere nero al polso. Ah, vabbè. Sì. È Fumagazzi. Lo so. Orologi Fumagazzi. Orologi. Categoria Fumagazzi. Orologi Fumagazzi. Solo per bravi ragazzi. Accidenti, che male! Questo duelame moderno è una falce! Mi sono massacrato! Moderno! Perché ti lamenti? Problemi di uomo. Ma diamine, meno male che ci siamo noi donne! Ecco, tieni, un regalo in anticipo per Natale! Ma che cos'è? Ma come? Non lo vedi? È Cagnoni, il dopo barba che piace alle persone! Quanto è vago questo. Wow, ma che profumo di maschio! Lo provo immediatamente. La mia pelle è irritata. Dopo barba Cagnoni. Il viso aggraffiato. Dopo barba Cagnoni. Da quella mattina che io ti ho provato, rasatura al top. Cagnoni, il dopo barba che piace alle persone. Ma questo è fanghissimo. Persone chi? Ma poi si sa che il cagnone quando si bagna puzza. Come fai a chiamarlo cagnone? Comunque ragazzi, io ho ricevuto l'altro giorno, ringrazio i fratelli Fumagazzi, gli ultimi modelli sono una roba. Ma quelli che stanno uscendo, ragazzi. Con orgoglio, proprio lo indossi, vedi la gente, l'occhio della gente che lo guarda e pensa: ah, va che c'ha il Rolex. Poi guarda e dice: ma non è un Rolex? Ma va. Ecco, ogni tanto guarda l'orologio, ok, va bene. Lo Zodi 105 ha sempre ragione. Lo Zodi 105 ha sempre ragione. Io non voglio mica farvi cambiare opinione, ma lo Zo ha sempre ragione. Lo Zodi 105 ha sempre ragione. Lo Zodi 105 ha sempre ragione. Lo Zodi 105 ha sempre ragione. Come? La cassa dritta ha sempre ragione. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Why would I wanna run through the night? dice, ma Beyoncé non doveva cantare la sigla di Fumagazzi? Sì, però dopo le abbiamo detto di no, non ci interessava. Era anche disposta a pagarci, ho detto no. Aspetta, sai che devo dire una cosa che è allarmante? Sai che cosa? Penso cosa? Che l'80% della gente che ascolta pensi che non sia vero il Fumagazzi, cioè che non esista realmente. Che sia ancora una panzana. È vero, tante volte mi capita e mi dicono, ma esiste veramente? Dico, sì. Certo che esiste. www.fumagazzi.it. Uno ha scritto, ma esiste un Fumagazzi da 7.000 euro? Questo non lo sapevo nemmeno. Ce n'è uno da 20.000. La Madonna. È d'oro, sì, è d'oro. Eccole qua, prendilo. No, cioè, compare ogni tanto. Sì, scambio con Vaccini se vi interessa. Quello del 15 è il Fumagazzi d'oro, però. Un altro dice, arrivare in un'azienda e sentire a tutto volume la signorina che parla di sgrillettate non ha prezzo. E poi è arrivato un messaggio e questa persona mi piacerebbe intervistarla domani, se siete d'accordo. Sì. Anche se non lo siete, lo faremo lo stesso, perché tanto io sono un dittatore, quindi. Madonna. Non era così. No. Cosa si infila nella vagina questa persona? Ricordatevi che io sono professionalmente il numero uno, ma umanamente una merda, ricordatevelo. Allora, sono un ex detenuto americano che tramite trattato di Strasburgo ha terminato la mia condanna in Italia dopo 2 anni di attesa alla mia richiesta. L'unico motivo per il quale Chicco Forti ancora non è in Italia è perché l'immagine del giudice che lo ha condannato conta molto più della sua stessa vita. Io questo non lo sapevo. Ricordate che il sistema carcerario americano è di tipo punitivo e non riabilitativo. Ti ho mandato svariati messaggi, chiamami in privato per favore. No, io faccio di meglio, a parte non li ho visti, scusa, perché purtroppo ricevo tanti messaggi inutili e quelli interessanti. Comunque, un messaggio in codice per l'Interpol è qui, abbiamo il suo numero, è qui. No, facciamo una roba, domani ti sentiamo molto volentieri se hai voglia di raccontarci questa cosa in onda, così capiamo anche, io non conosco il sistema carcerario americano. Ma scusa, vai, non lo vai, spara una persona e vai. Non lo voglio conoscere, perché io ho amici che sono stati fermati perché avevano bevuto una birra di troppo e mi hanno detto che sono stati 3 giorni da incubo, cioè ti trattano come un omicida, quindi è brutto, cioè vorrei evitare. Infatti vi consiglio, se vi capiterà mai di venire in America, non mettetevi alla guida con una birra di troppo, perché passate veramente i guai. Cioè, sì, ma guarda che devi parlare con te stesso e con me anche. Sì, infatti. Non usciamo più a cena. Tra l'altro il problema sai qual è? Che ho scoperto che finché hai la carta verde non ti possono dare l'ergastolo. Sai che qua in Florida c'è la pena di morte. Finché hai la carta verde non te la possono dare. Quando diventi cittadino invece sono cazzi tuoi. Quindi da una parte, allora, te la possono togliere la carta verde, possono decidere basta, hai fatto la cazzata, te ne vai. Ma se sei americano, ma no. Se io scendo dalla macchina e fingo di essere quello sciolto nell'acido del film di Robocop. Sì, me lo ricordo. Dici che ci cascano. Allora, ti do un consiglio, Paolo. Quando tu viaggi in macchina, portati sempre la patente italiana. No, e quella americana un domani, ok? Sì, se ti fermano uno sbirro, tu tiri giù il finestrino e parli come parli malissimo, tra l'altro l'inglese, una roba ghiacciata. Che cazzo, tu dici, no, sono italiano, sono pugliese, sono italiano. Tu sul sedile di dietro metti sempre degli arrosticini e dici che sei abruzzese. No, stavo cercando posto per grigliare. Allora si inteneriscono, capito? Ti segnalano una piazzola. Paolo, con la sfiga che ha. Becca un vegano. No, lo ferma. Madonna, quella volta un polizio. Quella volta mi ha fermato, stavo morendo dentro. Ma maestro, si ricorda quando ci hanno fermato a me e lei? Mamma mia. Ma stavamo andando al centro commerciale, c'era il maestro con la sua fidanzata qua in vacanza. Oh no, eri solo forse. No, sì, solo, mi sa. No, solo. Eravamo su una macchina a noleggio, se non sbaglio, facciamo questo ponte a tuono, io andavo a manetta. Guardi maestro che bello, a un certo punto. Sì, che poi sirena. In America non c'è nessuno, deserto, fai una cazzatina, si andiamo e si stanno dietro. Spunta questo poliziotto enorme con le cicatrici in faccia, tatuato. Pioveva di brutto, tatuato, arriva con la macchina in borghese, con queste braccia che erano grosse come il bacino del maestro, e inizia a gridarmi la qualsiasi, io sorry. Lui ti ha detto, quello che mi sta sulle palle è che ti devo fare la ramanzina sotto la pioggia e mi sto bagnando, cioè una roba. Io, I'm sorry, alla fine ci ha lasciato andare il maestro da dietro. Oh, gliele hai cantate, eh? E io ho detto solo I'm sorry. Il maschio alfa che era in te. Che cazzo devi dirgli a uno così? Ma questo mamma. Spara, ragazzi, una volta mi hanno fermato a Chicago, dopo mi hanno eletto senatore. Ma vai anche a gara. Non è successo, va bene, ricordo male. Parliamo di robe serie, che purtroppo questa cazzo di crisi sta veramente mettendo in ginocchio tanti settori. È arrivato un messaggio di un gruppo di ragazzi che fanno teatro. Magari domani lo tengo da parte e lo leggiamo. Perché camerino. Che facevano teatro. No, hanno un progetto interessante che stanno preparando, hanno bisogno di fondi, quindi se riusciamo ad aiutarli. Ah, ok, quindi intervistiamo dei prossimi falliti, benissimo, lo facciamo domani. Il problema qual è? Che i DJ, per esempio, sono bloccati in casa, non lavorano ormai da un anno, e ci sono quelli tipo Christian Marchi che si reinventano, e Christian Marchi è diventato un marchettaro professionista, influencer, e comunque lui se la cava perché è un ragazzo molto intelligente. Altri invece purtroppo sono che... in cameretta su Twitch. Esatto. E quindi cosa fanno questi? Si inventano la qualsiasi per cercare di attirare l'attenzione. Certo. Christian e Marco, che hanno preso spunto da Christian Marchi, hanno inventato un escamotage che secondo me funziona e prima o poi li premierà. Sentiamoli, prego. 2021. Il mondo è cambiato e per ora non c'è un rimedio. Interi settori sono al collasso, le discoteche sono morte e insieme a loro anche i DJ. E il pubblico è rimasto chiuso in casa. Ma i DJ per sopravvivere sono disposti a tutto, come chiamare la gente a casa per intrattenerla. Loro sono Christian e Marco. Pronto? Eccoci qua, siamo tornati a farvi ballare come tutti i giorni. Sei pronta a cantare con noi? Vai! Che vai! Sarà perché ti amo. Brava, poi! Vai, non la so, va avanti tu. Vamos alla playa. Oh, oh, oh, oh, oh. Brava, adesso canta questa. Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Oh, come? Paura. Senti, adesso che ti abbiamo fatto ballare sei contenta? Cosa ci puoi ce lo puoi mandare qualcosa su PayPal? Ce l'hai, no, PayPal? No, io so. Cosa? Io ho 20 anni. E noi c'è no. PayPal, ci mandi i soldi su PayPal, ci mandi qualcosa. Parla con le nonni, Facciamo così, passiamo noi in macchina, ci fai un piatto di pasta, passiamo a pranzo. Sì, vieni. Cosa ci fai da mangiare? Abbiamo trovato da mangiare. Ti faccio i tagliatelli, un posto a tavola che c'è un amico in più. Bellissimo! Sposta un po' la seggiola che c'entri pure tu. Gli amici in questo servono per stare in compagnia. È vero? Bravissimo! Che meraviglia! Vai, che ti arriva l'infarto, vai! Fatto! Ennio, siamo noi, pronto! Vai, canta! Ennio, siamo i due DJ da casa, Marco. Porco ancora! Ancora, ma che cosa volete? Vogliamo farti compagnia e farti ballare perché... Ma siamo in ritardo, ma come la compagnia? Ma voi siete due bastardi! Che cosa vuoi? Ma che cazzo vuoi da me? Chi può sapere? Vai, hai sbagliato il numero! No, sappiamo! No, noi facciamo intrattenimento, visto che le discoteche sono chiuse e non possiamo lavorare, allora intratteniamo le persone da casa! Vai, fai il trenino, vai! Ma che trenino? Me lo faccio fare io il trenino, bastardo! Vai, che bastardi, siete due bastardi ubriachi! Insieme a noi! Vai. Sei pronto? Ma per fare cosa? Adesso tocchiamo i denti! Tocca a te! Ma mi devi lasciare stare! Sei pronto, vai! Vamos alla playa! Vai, tua madre! No! Ma poi chi siete? Non ti conosco! Ma che? Già la memoria, io sono colpa! Ma io non ti conosco, non so chi ci sei! Ennio, allora, noi facciamo vamos alla playa e tu oh, sei pronto? Oh! Ennio! Ma guarda che Sanremo dall'altra parte! Ennio, sei contento che ti sei in mezzo al campo con la merda? Sono con la merda! Ennio, sei contento che ti stiamo facendo ballare, ti intratteniamo in questa giornata tua sempre piena di merda? Vai su con la merda! cazzo sei un colpo, vai, vai, balla, vai con lo spumante in faccia. Ai, ai, caramba, bastardo. Ai, ai, caramba. Ma siete due bastardi! Ma non potete andare a lavorare! Non possiamo, come Agnolo, cristiani! Non possiamo, le discoteche sono chiuse, non abbiamo più lavoro, non stiamo facendo ma così! Ma ci sono già di quei posti, ma ti prendono in campagna, vai a lavorare in campagna, brutto bastardo! Senti, non è che ci puoi mandare due panini con un affettato, ci abbiamo fame, sai, non lavoriamo da tanto. Due panini? Sì, due panini! Fai un gesto da amico! Vai! Vai! Sulle mani, Ennio! E ma sono in mezzo e cambi con la merda, madonna. È la cosa più bella che l'ho fatto fino adesso. Sono in mezzo e cambi con la merda. Perché non la merda? Ai, ai, caro. Sono con la merda. Bravo Wender, bravo Johnny. Bello, bellissimo sto blocco. Bravissimi, finalmente. Non solo le scenette di Paolo ti fanno fare anche delle robe creative. È scesa tutta, niente. Non ho capito la polemica. Scemi, non abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno alla mia Stefanina. Amichina, chiamamela subito. Ma che cosa stai dicendo? Ma vaffanculo, te in ritardo. Tu sei ritardato, bravo, bastardo. Bravo. A domani, amici. È stato bellissimo. Aspetta, auguri, amore mio. Bene, ti amo tanto. Aspetta. Tanti auguri. Dai, un secondo. No, non ce la faccio. Ma non me ne frega un cazzo. Amichina? Auguri, amichina. Amore lei, ciao ragazzi. Ciao. Pippo, vaffanculo, rovini sempre le cose belle. Pezzo di devi merda. Devi guardare l'orologio. A domani. Ciao.